I've had enough. I've had enough of the violence against my friends. They killing us for no good reason but the color of our skin. Mi lasci senza fiato dall'arrivo alla partenza, sento nostalgia della tua presenza. Manchi come l'aria in questa casa vuota, lo sguardo nello spazio nuota. Oggi non ci sei, è dura da accettare, non c'è soluzione che possa provare. Domani non lo so cosa succederà, magari mi sveglio e ti ritrovo qua. Forse sei un sogno, bello e non reale, forse in questo sogno voglio restare. Senza svegliare, senza realizzare, solo continuare, senza fermare. L'istante in cui mi trovo in questo momento, se mi sveglio di certo me ne pento. I've had enough of the violence against my friends. They killing us for no good reason but the color of our skin.